perfetto giorno. Ancora scontro aperto tra Turchia e Olanda, Amsterdam attacca, ritiri le accuse di nazismo o rapporti a rischio. Approda finalmente in aula la legge sul testamento biologico, se approvata il rifiuto delle cure diventerebbe un diritto del paziente. Tolta la bambina ai cosiddetti genitori nonni di Casale Monferrato, la piccola, ha deciso il giudice, è adottabile. Una buona giornata e bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. Poi c'è anche la pagina Facebook della trasmissione, www.facebook.com/effettogiorno, sulla quale a partire dalle 13.15 andremo in diretta come sempre. Vi ricordo che anche questa trasmissione va in onda senza le firme dei giornalisti e quindi anche il sottoscritto, giornalisti che hanno proclamato lo stato di agitazione, preoccupati per gli sviluppi dell'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul gruppo 24 ore, chiediamo all'editore di dare un immediato segnale di discontinuità. La rappresentanza sindacale dei giornalisti del quotidiano, tra l'altro ancora in sciopero, ribadisce che la gravità della situazione non consente di ricorrere a soluzioni pasticciate che non comportino l'effettiva uscita del direttore dal giornale. Un consiglio di amministrazione straordinario del gruppo 24 ore è convocato per le 17 di oggi. Questo è quanto per quel che riguarda questo gruppo editoriale. In apertura andiamo allo scontro tra Olanda e Turchia. Una crisi che ha fatto un salto di qualità verso lo scontro aperto, quella tra Turchia e Olanda, scoppiata nel fine settimana con il no del sindaco di Rotterdam al comizio del ministro degli esteri di Ankara. La miccia si è accesa dopo che è stato impedito l'accesso al consolato turco della città alla ministra della famiglia, insieme appunto al divieto di atterraggio del volo di Cavusoglu, che avrebbe dovuto tenere un comizio alla comunità turca locale in vista del referendum costituzionale turco del 16 aprile, che in caso di vittoria del sì trasformerà la Turchia da repubblica parlamentare a repubblica presidenziale. Circa 400.000 i turchi che vivono nel paese europeo e mercoledì saranno chiamati a votare per le legislative olandesi, quegli stessi elettori che grazie a un doppio passaporto dovranno poi esprimersi nel referendum turco. Diverse centinaia di persone manifestano da sabato, ieri 6 arresti. L'Olanda ha emesso un'allerta di viaggio ai cittadini olandesi in Turchia. Gli ambasciatori di entrambi i paesi sono stati richiamati per consultazioni. Lo scambio di accuse non si ferma. I Paesi Bassi, la cosiddetta capitale della democrazia, ma lo dico tra virgolette perché sono di fatto la capitale del fascismo, attaccato Cavusoglu, facendo eco a Erdogan. Durissima la risposta del primo ministro olandese Rutte. Questo paese, come ha già sottolineato il sindaco di Rotterdam, è stato bombardato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. È assolutamente inaccettabile dire cose del genere, dunque che si scordino di ottenere delle scuse perché semmai sarebbero loro a doverne fare. E per capirne di più abbiamo intervistato Serves van der Laan, redattore del settimanale politico Elsevier, appunto settimanale politico olandese. Noi siamo per avere delle elezioni a mercoledì e poi in Turchia ci sarà il referendum, no? Di Erdogan. E comunque perché in Olanda ci vivono 400.000 turchi, cioè sono olandesi ma i neonati sono turchi, quindi negli anni 50-60 abbiamo avuto questo flusso di immigrazione da Turchia in Olanda. Il fatto che in Olanda ci siano molti turchi sì, ha un peso però anche per la Turchia come base elettorale, perché non è stato permesso l'arrivo per un comizio elettorale al ministro turco? Di solito non ci sarebbe un problema, quando non ci sono le elezioni qui in Olanda non ci sarebbe un problema secondo me, ma comunque noi perché stanno arrivando queste elezioni in Olanda? Il primo ministro Rutte, Mark Rutte, ha pensato che non sia una bellissima idea di avere questi ministri turchi in Olanda a fare discorsi ai turchi in Olanda, perché noi sono olandesi, tipo Mark Rutte ha detto noi stiamo parlando di olandesi, cittadini olandesi, sono anche turchi ma devono votare qui per le nostre elezioni e non per le elezioni in Turchia. Gli eventi di sabato sera daranno un grande spinto alla popolarità di Geert Wilders, ma anche gli altri partiti di destra. Stando alla TV panaraba Al-Mayadin, un gruppo di miliziani tunisini dell'ISIS con base a Raqqa, roccaforte jihadista nel nord della Siria, avrebbe tentato di compiere un golpe contro i vertici dello Stato Islamico, accusando pubblicamente Abu Bakr al-Baghdadi di essere responsabile del cattivo trattamento economico. In questo tentativo di golpe avrebbero ucciso con un attentatore suicida almeno 20 alti quadri dell'organizzazione. Approda in Parlamento finalmente la legge sul testamento biologico. Gli aggiornamenti in diretta. Sì, buongiorno, parliamo del cosiddetto DAT, disposizione anticipata di trattamento, la proposta di legge che approda oggi a Montecitorio, prima firmataria la deputata del PD Donata Lenzi. Obiettivo del testo: regolare il fine vita, un'esigenza tornata prepotentemente in cima al dibattito politico con la vicenda di DJ Fabo ed 8 anni dopo il caso di Eluana Englaro. Le norme oggi in Parlamento, ed è bene chiarire subito, non c'entrano nulla con l'eutanasia attiva o il suicidio assistito, che prevedono la somministrazione da parte del paziente stesso e del medico di farmaci letali. Il testo in oggetto, e sul quale potrebbe convergere un fronte trasversale, prevede di base che chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari e può lasciare scritto preventivamente il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il testamento biologico deve essere redatto per atto pubblico dal notaio o per scrittura privata. È tutto, linea allo studio. E grazie per questo aggiornamento. Veniamo alla vicenda dei cosiddetti genitori nonni di Casale Monferrato. Avanti nella battaglia per riconoscere come famiglie quelle arcobaleno, eppure ci sono casi in cui restiamo ancora indietro nel tutelare i minori. Come a Torino, dove la Corte d'Appello ha confermato lo stato di adottabilità della bimba che era stata allontanata dalla coppia di genitori definiti nonni di Casale Monferrato a pochi giorni dalla nascita. La piccola resterà con la famiglia adottiva. Secondo il giudice non si può ricucire il cordone ombelicale reciso nel 2010, quando venne tolta ai genitori per un presunto abbandono in auto, abbandono che non ci fu. La piccola veniva monitorata costantemente mentre per soli 7 minuti il papà si allontanò da lei per riscaldarle il biberon. Fatali però furono quei 7 minuti. La bimba che si sveglia e piange, la vicina di casa che chiama i carabinieri e la presunta colpa che viene fuori. L'età dei genitori: 69 lui, 57 lei, troppo vecchi per occuparsi di quella figlia tanto desiderata, partorita all'ospedale Sant'Anna da Gabriella solo pochi giorni prima. Età da nonni, ai quali lasciamo figli piccoli senza problemi nella società in cui è diventato normale partorire a 40 anni. Ma i giudici, nella pronuncia di oggi, hanno considerato lo stato attuale. La piccola ha un'altra famiglia da anni. Quei 35 giorni sono stati troppo pochi per creare un legame con i suoi veri genitori. Sarà presentato a breve un ricorso per tutelarli, ma noi ci chiediamo: chi racconterà tra qualche anno alla piccola Viola quanto i suoi genitori veri hanno dovuto lottare? Chi le racconterà questa storia dolorosa? Continua a far discutere il caso del ristoratore che nell'Odigiano ha ucciso un ladro. Oggi ci sarà l'autopsia del ladro, appunto, ma si riapre evidentemente il dibattito sulla legittima difesa. Fino a che punto la difesa è legittima? Il dilemma esce dalle aule di giustizia e diventa tema di dibattito politico tutte le volte che si ripete una storia come questa ultima dell'Odigiano. L'oste sente l'arrivo dei ladri, va a controllare armato e alla fine uccide uno dei malviventi, come è stato per Mario Cattaneo, che ha lasciato a terra senza vita un 28enne romeno che sarà oggi sottoposto ad autopsia. E questo è un primo passaggio fondamentale nell'inchiesta per omicidio volontario per ricostruire il percorso del proiettile. La questione della difesa è molto sentita, soprattutto dai commercianti più esposti al rischio rapine, come è stato per l'ex tabaccaio di Milano Giovanni Petrali, non a caso tra i primi a portare la sua solidarietà al bancone del bar di Casaletto Lodigiano. Lui, dopo una prima condanna, fu assolto sulla base di una legittima difesa putativa. Questo stabilì 6 anni fa la Corte d'Assise d'Appello, questo confermò la Cassazione e con contorni più o meno simili il tema si è riproposto molte altre volte. Così, ad esempio, lo stesso reato di omicidio volontario fu contestato anche al pensionato di Vaprio Dadda, che uccise un giovane ladro. E allora, come oggi, la vicenda alimenta polemiche politiche. Il centrodestra si schiera al fianco di chi spara, ma allora, proprio come oggi, non sono pochi anche gli avvocati che sollecitano una revisione e un ampliamento della legge sulla legittima difesa. Ancora la cronaca, incidente nella nuova sede di assicurazioni di Roma di Viale delle Mura Portuensi. Intorno alle 9 una cabina ascensore è precipitata. Tre persone all'interno sono state trasportate in ospedale dal 118 in codice rosso con diversi traumi, ma non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il punto sulla politica e sul Partito Democratico, ci colleghiamo con Montecitorio. Sì, buongiorno. Il giorno dopo il Lingotto a parlare un altro candidato alla corsa alla segreteria PD, Andrea Orlando. La sfida contro Renzi ed Emiliano si può vincere. Andrea Orlando si dichiara l'unico in grado di unire la coalizione, sottolinea la sua appartenenza alla sinistra che ha scommesso sulla prospettiva dell'unità dei riformisti. Per il guardasigilli è da apprezzare anche la proposta di Walter Veltroni su una manifestazione per i migranti. Sarebbe un modo, dice Orlando, per dare senso politico alle primarie. Intanto Enrico Letta non ha ancora deciso se votare alle primarie, ma se lo farà sceglierà un candidato che unisce e non che divide. Ieri, l'ultimo giorno della kermesse al Lingotto di Torino, del segretario uscente Matteo Renzi, ancora favorito alla corsa per la segreteria, che ha attaccato gli scissionisti. Qualcuno ha cercato di distruggere il PD, ma si mettano il cuore in pace. C'era prima, ci sarà dopo di noi. La partita inizia ora. E Renzi ribadisce l'appoggio al governo Gentiloni. Per ora è tutto, a voi studio. E grazie per gli aggiornamenti da Montecitorio. Siamo a 4 anni di pontificato di Bergoglio. Quando Jorge Mario Bergoglio si affacciò per la prima volta in piazza San Pietro, bastarono pochi minuti a capire che quello che molti a torto in conclave consideravano solo un candidato di facciata avrebbe segnato invece il corso della Chiesa Cattolica. La scelta del nome, Francesco, indicava già il programma, così come l'adozione di un nuovo linguaggio e nuovi gesti. Il luogo dove abitare, i mezzi di trasporto su cui viaggiare, raccontavano fin da subito chi era questo Papa venuto dalla fine del mondo. Dal sinodo sulla famiglia alla riforma della curia, dal rinnovamento del collegio cardinalizio allo slancio ecumenico, un solo filo conduttore: riportare al centro il Vangelo della misericordia, attuarlo con una chiesa in uscita, capace di raggiungere tutte le periferie fisiche, ma soprattutto esistenziali. In questi 4 anni, inutile negarlo, non sono mancati gli oppositori, specialmente quelli interni alla curia. Ma Francesco va avanti, convinto che le critiche, se in buona fede, aiutano a camminare. 500 parti all'anno è il limite sotto il quale vanno chiusi per legge i punti nascita, ma ci sono luoghi nei quali il posto dove andare a partorire è molto lontano o difficilmente raggiungibile. È caso dell'Isola della Maddalena, dove da giorni è in atto una protesta delle donne che aspettano un bambino. Quella che è considerata un po' la portavoce di questa protesta è Melissa Posadino, l'abbiamo raggiunta. Dovrei andare in ospedale all'inizio, appena sento i dolori. Da lì mi mettono su un'ambulanza e mi trasporterebbero ad Olbia, che sono 25 minuti di traghetto per arrivare a Palau, più 45 minuti di macchina per arrivare ad Olbia. Però se questo capita in pieno agosto, non sono più queste tempistiche ovviamente, se invece capita con vento fortissimo, il traghetto può anche non viaggiare. Nel caso non sia possibile arrivare ad Olbia, perché a volte le condizioni del mare molto semplicemente non lo permettono, caso non sia possibile, arriva in ospedale qua alla Maddalena, che comunque i medici si rendono conto che rientra come un'urgenza, la fanno partorire qua, come si è sempre fatto. Però dopo 2-3 ore massimo mettono il bambino su un'ambulanza e la mamma su un'altra ambulanza, perché il bambino ovviamente deve viaggiare su una culletta termica, e vanno trasportati ad Olbia, oppure mettono solo il bambino su un'ambulanza, perché comunque abbiamo anche il problema dell'autista. Che non c'è nemmeno l'autista dell'ambulanza. C'è solo un autista, quindi solo il bambino autista. Viene portato ad Olbia, poi l'ambulanza ritorna a Maddalena e prende la mamma e la porta ad Olbia. Non mi sembra nemmeno, devo essere sincero, non mi sembra nemmeno il massimo dell'efficienza, tutto sommato. Infatti, vanno a spendere il doppio dei soldi, quando invece si potrebbe ridurre tutte le spese mettendo qui alla Maddalena un anestesista, potenziando l'emoteca, perché abbiamo tutto noi comunque. Siamo al fine settimana sportivo e soprattutto calcistico, in realtà giornata di campionato che non si è ancora conclusa, Carlo Genta, si concluderà stasera, no? Si concluderà stasera, a dir poco frastagliata questa giornata di campionato, complice ovviamente gli impegni europei della Juventus. Abbiamo cominciato con l'infuocato Juventus-Milan di venerdì, che non è ancora finito per quanto riguarda le code polemiche. Sabato il derby di Genova, vinto dalla Sampdoria per la seconda volta consecutiva, peraltro non accadeva in molti anni, E poi ieri abbiamo ammirato tutti Icardi e l'Inter, questo 7-1 contro l'Atalanta che rilancia le ambizioni europee della migliore interstagionale, questo è quasi inutile dirlo, anche se la Roma è riuscita a rispondere dopo mettendosi alle spalle forse una crisi che i romanisti si augurano passeggera, vincendo 3-0 su un Palermo che ormai ha poco da dire nella corsa salvezza, anche se l'Empoli ha davvero mollato i freni, è caduta libera, 5 sconfitte consecutive se non ricordo male, però la distanza rimane 7 punti che sono moltissimi in questo campionato così strano. Dunque vincono Juve, Roma, Napoli 3-0 sul Crotone, Inter tutte le prime della classe, perde solo l'Atalanta appunto fragorosamente a San Siro e questa sera c'è Lazio-Torino che chiude la giornata di campionato finalmente. Lasciami leggere. Finalmente. Allora grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia che andrà in onda anche oltre che sulle nostre frequenze, anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Effetto Giorno, www.facebook.com/effettogiorno. Inizieremo da una vicenda, la vicenda che riguarda un omicidio suicidio avvenuto nei giorni scorsi, un uomo che si è lanciato contro un tir, ve l'abbiamo raccontato, e con la sua auto a bordo c'era anche la moglie, i due si stavano separando, ebbene si è appreso che la vicenda sta diventando anche una vicenda giudiziaria. Perché? Perché il giudice per le indagini preliminari aveva deciso che non c'era bisogno dell'allontanamento di quest'uomo dalla moglie e poi è successo quello che è successo, traffico. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, la nostra pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta in questo momento, www.facebook.com/effettogiorno. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello scontro ancora aperto tra Turchia e Olanda, abbiamo parlato della legge sul testamento biologico che approda finalmente in aula, della vicenda dei cosiddetti genitori nonni di Casale Monferrato, del quale, per la cui figlia è stata stabilita l'adottabilità ancora di legittima difesa, e delle vicende interne al Partito Democratico. E adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo il nostro giro per l'Italia andando a Gambellara e siamo nel Vicentino. La vicenda ve l'avevamo raccontata in puri termini di cronaca nei giorni scorsi ed è la vicenda di quello che sembra essere appunto un omicidio-suicidio. Un uomo, Antonio Facchin, 54 anni, si lancia di fatto contro un tir con la sua auto, almeno questa è l'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli inquirenti in queste ore, per togliersi la vita insieme alla moglie Vanna Meggiolaro, dalla quale sostanzialmente si stava separando. Un caso di omicidio-suicidio, un caso di femminicidio sostanzialmente, e che però si arricchisce di un particolare puramente giudiziario. Un giudice per le indagini preliminari che decide, nonostante una serie di segnali premonitori, per così dire, tra cui violenze vere e proprie e anche minacce, di non disporre l'allontanamento dell'uomo dalla moglie, e la procura, il procuratore capo di Vicenza, che nelle scorse ore se l'è presa proprio con questo giudice per le indagini preliminari. Noi siamo in linea con Vanna Vigolo, che è l'avvocata della donna che è morta in questo incidente, che è Vanna Meggiolaro. Buongiorno e benvenuto, avvocato Vigolo. Buongiorno a tutti. Allora, le chiederei innanzitutto di aiutarci a ricostruire quali episodi hanno portato, come dire, la vicenda a finire davanti ai giudici, tenendo presente che ci torniamo perché c'è un elemento di attualità, nel senso che si è appreso oggi che questa questione finirà davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Vedremo come andrà a finire, non lo possiamo sapere, ovviamente il GIP andrà là a difendersi, però vorrei sapere quali sono stati questi segnali che ho definito magari erroneamente segnali premonitori, ma che comunque sembrano esserci stati. Prego. Sì, buongiorno ancora a tutti. Ovviamente il fascicolo è molto corposo di questo caso, quindi difficile riassumere. In ogni caso, un anno fa esattamente la procura, nella persona del PM che seguiva le indagini, la procura di Vicenza, riteneva di chiedere questa misura dell'allontanamento del coniuge dalla mia assistita sulla scorta di una serie di segnali, come diceva lei, di violenza, sulla scorta di un presunto reato ai sensi dell'articolo 572 del codice penale di maltrattamenti in famiglia. Sì. E i segnali ovviamente erano stati evidenti, sono i soliti, quelli che purtroppo lesioni personali conoscono. Non c'erano lesioni personali, ma ecco, io ora non vorrei entrare troppo nel merito, ma comunque delle violenze prevalentemente verbali. Tra l'altro qua viene riportato il 24 ottobre del 2012 minaccia con un coltello i suoceri con i quali non correva buon sangue, dicendo leggo dal Corriere del Veneto, vi scanno tutti, aveva detto, minacciando con un coltello i suoceri. Sì. Quindi i segnali, come dire, che non fosse un uomo propriamente tranquillo, per dir così, per dirla come dire, eufemisticamente, c'erano tutti. Che cosa succede? Succede che il GIP decide che quest'uomo non va allontanato dalla moglie. Succede che il GIP, a distanza di pochi giorni dalla richiesta della Procura della Repubblica, ritiene che manchi sostanzialmente, ora vado sempre a una sintesi molto facile, molto veloce, sì, ritiene che manchi il requisito dell'abitualità che dovrebbe fondare proprio quel reato di maltrattamento in famiglia, ossia la ripetizione dei comportamenti, chiamiamoli molesti, e questa abitualità quindi per lui non c'è in tutti i comportamenti del facchin, e di conseguenza rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare. Rigetta questa richiesta che è arrivata dalla procura e ovviamente immagino sostenuta da voi, avvocato Vigolo. Certo, io poi devo precisare di essere subentrata al patrocinio della mia assistita proprio in quel periodo, e quindi il rigetto è arrivato quando io iniziavo a conoscere la mia assistita, ad avere i primi colloqui, e devo dire ovviamente che la reazione è stata piuttosto sconcertata da parte di entrambe. Però, nel rispetto, dico questo ovviamente nel rispetto poi dell'analisi che il GIP ha voluto fare in quel momento. Naturalmente, qua lo ricordiamo, appunto, ci sono anche le dichiarazioni attuali di Antonino Cappelleri, che è il procuratore capo di Vicenza, il quale dice del GIP c'è stata poca perspicacia, che è, anche qua siamo sul filo dell'eufemismo, insomma, è un modo di dire, è un modo molto duro di trattare la decisione del giudice per le indagini preliminari. Sicuramente, comunque, chi di dovere dovrà fare chiarezza. Ora so appunto che è stato investito l'organo superiore della magistratura e vedremo come andrà. Aveva paura di suo marito, la sua assistita? Beh sì, io credo che poi la situazione sia precipitata nel momento in cui la signora, con molta fatica devo dire, si è determinata ad adire le vie giudiziali anche per la separazione personale. C'è qualcosa che però a questo punto è difficile spiegare, come mai fosse in macchina con lui? Non lo saprà mai nessuno, ce lo siamo chiesti io, se l'è chiesto anche il legale del facchin, con il quale devo dire c'è stata una buona collaborazione nell'ultimo periodo, visto che si stava poi andando verso una soluzione consensuale della separazione. E quindi siamo ancora più stupiti di questo, non sappiamo che cosa ci facessero nell'auto insieme quel giorno. Ma le motivazioni del GIP quali sono state, avvocato Vigolo? Al di là della scarsa abitualità, questa fondamentalmente, proprio quella che ho appena ripetuto, l'assenza di un comportamento che doveva essere reiterato nel tempo, con più atti. La ringrazio. Mentre il giudice concluso ravvisava quel comportamento del facchin, solo lo identificava, diciamo, in una reazione dovuta proprio alla notizia della separazione della moglie, della volontà di separarsi. La ringrazio, grazie a Vanna Vigolo, avvocato Ivana Meggiolara, per essere stata con noi. Le auguro buona giornata. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi il nostro giro per l'Italia ci porta in Umbria, dove qualche giornale, in particolare il quotidiano La Repubblica, parla di una serie di sciacalli che ruotano intorno al terremoto, e non si tratta in questo caso né di costruttori né di quelli che ruotano. rubano nelle case, ma di quelli che speculano sui quattrini che arrivano dallo Stato per i terremotati. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: ancora scontro aperto tra Turchia e Olanda, Amsterdam attacca, Ankara ritiri le accuse di nazismo o i rapporti sono a rischio. Approda finalmente in aula la legge sul testamento biologico, se approvata il rifiuto delle cure diventerebbe un diritto del paziente. È stata tolta la bambina ai cosiddetti genitori nonni di Casale Monferrato, la piccola, ha deciso il giudice, è adottabile. Parleremo con il loro avvocato tra poco. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo sempre al 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla quale tra l'altro potete anche commentare durante la diretta, www.facebook.com/effettogiorno. La vicenda, la notizia è arrivata questa mattina, e che riguarda, allora, l'espressione a me non piace, però è per farci capire dagli ascoltatori, visto che è sempre così è stata presentata giornalisticamente, la vicenda dei cosiddetti genitori nonni di Mirabello Monferrato, lei 56 anni all'epoca del parto, 68 lui all'epoca del, appunto, pardon, all'epoca del concepimento. Nasce questa bambina, la bambina viene lasciata, appurerà la verità giudiziaria successivamente. La bambina viene lasciata per 7 minuti in auto mentre il padre va di sopra a scaldare il latte, scatta una denuncia per abbandono di minore, lui va sotto processo, la bimba viene data in affido e adesso ne viene decisa l'adottabilità. Adriana Boscagli è l'avvocata della coppia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, ho riassunto molto brevemente, ma mi sembra che la sostanza sia questa, no? Perfettamente, questa è l'analisi sintetica ma corrispondente alla pura verità. E quindi quello che possiamo aggiungere è che nella valutazione precedente, che portò 3 gradi di giudizio a rendere inadeguati i genitori per avere con sé questa bambina, trapelava fortemente anche una sorta di pregiudizio dell'età. La Corte di Cassazione, pregiudizio per l'età, mi scusi Boscagli, anche da parte dei giudici? Beh, direi solo da parte dei giudici, perché sono loro che giudicano, che non è un pregiudizio con un'accezione maliziosa, è un pregiudizio forse anche inconsapevole o comunque non troppo tra le righe, si evidenzia con molta forza l'inadeguatezza di genitori che vengono appunto considerati equivalenti a dei genitori nonni. Quindi il pregiudizio viene addirittura richiamato proprio dalla sentenza di Cassazione che abbiamo avuto favorevole quest'estate, il 30 giugno del 2016, che appunto rinviava alla Corte d'Appello revocando la precedente sentenza, poiché in quelle precedenti sentenze vi erano 2 aspetti che non avrebbero dovuto esserci. Primo, la considerazione dell'abbandono, in quanto poi era stato accertato che abbandono non era, ma era sicuramente in una situazione lasciata alla bambina non di pericolo, tanto da essere ravvisata la condizione prevista dalla legge per togliere la bambina, e l'altra per l'appunto l'età. Sì, Boscagli, le chiedo pregiudizio dei giudici non a caso, perché in realtà la denuncia è arrivata da 2 vicini, se non erro, no? Da 2 vicini di casa, sì. Che evidentemente nutrivano lo stesso pregiudizio, si presume almeno. Evidentemente no, parliamo di una piccola realtà del piemontese, laddove probabilmente ci sono anche una serie di preconcetti, ci sono anche delle mentalità un po' chiuse e magari un giudizio di valore errato nei confronti di questa coppia un po' schiva caratterialmente e un po' riservata come modalità. Sicuramente sono tutti aspetti che hanno influito e non favorevolmente. non hanno influito favorevolmente. C'è una possibilità di altri passaggi giudiziari? Perché adesso, mi scusi, avvocato, dall'altra parte si scontrano due temi. Il fatto che questa bambina finora, che adesso ha 7 anni, di fatto non è cresciuta con queste due persone che pure sono i suoi genitori naturali. E quindi c'è un'esigenza della bambina, se vogliamo, no? Sotto questo aspetto. Dall'altra parte ci sono questi due genitori che sono i genitori naturali che, insomma, se vogliamo, era veramente l'ultima possibilità per loro di avere un figlio, e c'è l'amore che hanno dato a questa bambina. Certamente sì, è giustissima la sua osservazione, tant'è vero che nella sentenza di Corte d'Appello che leggiamo oggi si intravede, nemmeno troppo superficialmente, che sia stato dato valore a questi 4 anni di assoluta assenza di rapporti tra i genitori naturali e la bambina. Assolutamente dobbiamo considerare l'interesse prioritario della bambina. Sicuramente il primo diritto e il primo interesse è quello della bambina, poi anche non del tutto trascurabile quello dei genitori naturali, però io faccio solo questa considerazione. Va bilanciato che la bambina fino ad oggi non è che è stata con una famiglia, fino a che ha potuto vedere i suoi genitori, li ha visti con regolarità, ma contemporaneamente ha passato varie comunità, ha passato varie famiglie affidatarie, forse solo da ultimo, e non sappiamo per quanto periodo continuativo, sta con un'unica famiglia. Ultima domanda, velocemente, Boscagli, farete ricorso, sì? Immagino di sì, dobbiamo avere il tempo di leggere con attenzione la sentenza, di valutarne i criteri, di confrontarmi con i signori che confido di vedere tra poche ore. La ringrazio, grazie Adriana Boscagli, avvocato della coppia, per essere stata con noi. Mario Platero, ci risentiamo dopo per i saluti.